Quest'anno sì, è un momento difficile, ma da un momento difficile dobbiamo anche capire le opportunità per il futuro. Credo che questo strumento dell'online non potrà sostituire gli incontri reali, non potrà sostituire la visione di un film al cinema, però può essere uno strumento che può essere utilizzato per tante altre cose, tante altre attività che si possono fare e veicolare il cinema e gli incontri. Entriamo un po' nel programma adesso. Qua dietro abbiamo l'immagine di quest'anno. Quest'anno abbiamo Giulietta Masina che nel 2021, a febbraio, saranno i 100 anni dalla sua nascita. Abbiamo voluto omaggiare una grandissima attrice, ma anche una cittadina perché è nata in Emilia-Romagna, quindi è una nostra conterranea. E lo facciamo con una mostra dedicata a lei, dedicata proprio a Giulietta Masina. Con il Centro Sperimentale di Cinematografia. Sono foto in parte inedite, tratte da molti suoi film, foto di Pierluigi Parturion, scusatemi se non lo pronuncio correttamente, che è stato uno dei fotografi di Fellini e di tante dive degli anni 60-70, di Osvaldo Civitate e di Ermanno Consolazione. E per inaugurarlo avremo un webinar, nel programma lo potrete vedere, dove parleremo col Centro Sperimentale, con ex alunni e sulla loro attività e su proprio questa mostra che verrà presentata in anteprima qui a Porretta. Il programma è ricco e sarà difficile raccontarlo tutto perché io ci siamo fatti molti appunti, però abbiamo una scaletta che un po' mi preoccupa perché penso che qualcosa mi dimenticherò. Quest'anno vorrei partire dalle novità. Le novità quest'anno sono una a cui tengo molto, che è la prima volta di. Abbiamo immaginato di poter avere a Porretta, non fisicamente il regista, ma un film, il primo film di un regista che ora è affermato a livello internazionale, ma che forse il suo primo film non è passato in sordina, nessuno l'ha considerato. Abbiamo individuato quest'anno il regista cileno Pablo Larraín, che ora è conosciutissimo, ha fatto film di grande successo e ne farà ancora. E ha raccolto, Pablo Larraín, devo dire la verità, ha raccolto da un piccolo festival come il nostro, subito questa proposta e presenteremo proprio in anteprima perché praticamente il film non è stato distribuito in Italia se non una presentazione fugace a Roma, il suo primo film che è Fuga, è un film quindi che andrà per la prima volta anche su in streaming, non è mai andato quindi andrà su My Movies e l'abbiamo diciamo come film d'apertura e quindi per noi è un grande vanto e penso che questo progetto potrebbe essere il primo film di tanti. Nel senso che può essere proprio una ricerca anche molto cinefila di film poco conosciuti di grandi autori che potrebbe diventare nei prossimi anni anche un elemento molto importante del festival. Altra cosa che non è diciamo la prima volta, ma è ormai diversi anni che lo proponiamo, sono film diciamo, del cinema europeo che per motivi diversi non riescono ad arrivare in Italia. Non riescono ad arrivare in Italia per la distribuzione però che hanno semmai avuto dei grandi successi in festival internazionali, che in Italia vogliamo farli arrivare anche solo per una volta a Porretta, in questo caso su My Movies, che io continuo a parlare di Porretta, ma è tutta Italia quest'anno. Quest'anno avremo Per uno sguardo altrove il film Focus Grandman di Pier Zalica. È un film che ha riscosso un grandissimo successo come film di anteprima all'ultimo Festival Internazionale di Sarajevo. E racconta di tematiche proprio della Bosnia. Quest'anno il festival, in realtà anche l'anno scorso è stato, diciamo, il focus è stato sulla Bosnia. Ovviamente noi ogni anno cercheremo di individuare un paese, semmai con una cinematografia meno conosciuta, e portarlo proprio come focus a Porretta, al Festival di Porretta. Continuo io con i progetti che abbiamo quest'anno, con il Premio Petri. Il premio Petri è arrivato alla seconda edizione, sarà un premio che speriamo che cresca, noi stiamo puntando molto su questo premio perché per fare un piccolo racconto di perché abbiamo ideato il premio Petri è proprio perché in questa sala nel 1971 Elio Petri presentò in anteprima internazionale, scusatemi, il suo film capolavoro poi premio a Cannes, La classe operaia va in paradiso. Questo abbiamo costruito il premio, l'anno scorso è stata la prima edizione, quest'anno abbiamo 7 film in concorso, diciamo sono stati selezionati 7 film in concorso che ve li vado a dire. Sono Hammamet di Gianni Amelio, Lo spaccapietre dei fratelli De Serio, Non odiare di Mauro Mancini, Volevo nascondermi di Giorgio Di Ritti, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, Favolacce dei fratelli di Innocenzo e Padre Nostro di Claudio Noce. E avremo prossima settimana, annunceremo il vincitore, e quest'anno come novità avremo anche un premio a un attore italiano per la carriera.